Quest'anno diciamo che abbiamo finalmente ripreso la modalità di fare la 2 giorni, quindi insomma dopo la pandemia l'anno scorso è stato un corteo bellissimo e molto partecipato, ma non eravamo riusciti a fare anche l'assemblea dopo. Invece quest'anno riusciamo, quindi siamo molto contente, perché Roma è, diciamo, nella data del 25 novembre è sempre un tassello molto importante per la costruzione e il rilancio del percorso politico di Non Una di Meno. Su Bologna sicuramente prima di scendere a Roma faremo durante il 25, che è proprio diciamo la data internazionale contro la violenza maschile sulle donne, di genere, e sicuramente a Bologna ci sarà un'iniziativa come Non Una di Meno. Parteciperemo a una piazza lanciata dalle compagne del MAMA contro le molestie in università, che sarà il 25 novembre alle 17 al Portico dei Servi, e poi da lì faremo una passeggiata in centro e ci fermeremo in una piazza del centro, ma a brevissimo usciranno, diciamo, tutte le info di questa giornata. Veniamo alle ragioni che purtroppo non mancano. Se cominciamo dalla forma più grave di violenza, che è quella dei femminicidi, anche quest'anno sono state superate le 100 donne uccise. Sì, come sappiamo i femminicidi sono una forma di violenza efferatissima, è una drammatica, anche un drammatico dato di attualità, perché non si ferma la violenza maschile, per la maggior parte sono anche dinamiche che sono nelle case. Se i femminicidi, come sappiamo, sono la punta dell'iceberg, diciamo, di tutto un fenomeno di violenza che va dalla violenza psicologica, la violenza nelle relazioni, molto spesso sono partner o ex partner che non accettano la fine della relazione, oppure comunque una dinamica di autonomia e di indipendenza della persona, quindi che vogliono controllare. Questa è ovviamente uno degli aspetti più drammatici su cui lavoriamo come movimento, perché ovviamente sono dei dati allarmanti. Con la Casa delle Donne, con cui abbiamo un rapporto strettissimo, cerchiamo di visibilizzare tutta una serie di questioni legate alla violenza maschile di genere, che anche per esempio l'autonomia economica, quanto le misure anche statali e regionali siano insufficienti per consentire alle donne e alle persone che vogliono fuoriuscire da relazioni violente, da dinamiche di violenza, di potersi allontanare dal luogo dove vivono, perché spesso purtroppo non hanno un conto, non hanno uno stipendio loro e sono completamente dipendenti dalla persona abusante. Sono tutta una serie di meccanismi che purtroppo ricadono in modo totale sia sulle donne che sulle persone LGBTQ+. La lotta di Non Una di Meno è una lotta transfemminista intersezionale, che quindi in questi anni ha ben legato la violenza strutturale che le donne subiscono da millenni con le violenze che subiscono anche soggettività femminizzate, e quindi questa giornata ha un significato molto molto forte, perché purtroppo le discriminazioni e le violenze non cessano di esistere, e quindi c'è necessità di organizzare la nostra lotta e la nostra rabbia ancora, perché le condizioni sono molto pesanti. Tu parlavi di autonomia ma anche di autodeterminazione, e insomma questo è il primo 25 novembre con il governo Meloni. Le motivazioni per scendere in piazza sono sempre state molto forti, e diciamo che in generale, come ripetiamo sempre nelle piazze, non ci piace, non vogliamo un patriarcato conservatore, ma non vogliamo nemmeno un patriarcato democratico. Noi vorremmo distruggere quel sistema patriarcale, coloniale, razzista e capitalista su cui si fonda la nostra società. Certamente però non possiamo equiparare tutte le realtà politiche partitiche, perché evidentemente avere una persona come Giorgia Meloni alla guida di un governo ci pone di fronte a tutta una serie di criticità che diventano lampanti molto più che con altri scenari politici. La Meloni vuole rilanciare, diciamo, il grido di Dio, patria, famiglia, quindi un'idea di famiglia tradizionale, ma così tradizionale che torniamo indietro nel tempo, quindi le froce, le persone trans, le persone non eterosessuali con un'identità di genere non conforme sostanzialmente spariscono proprio dall'agenda politica, e le donne vorrebbero essere drammaticamente relegate a un ruolo legato al focolare domestico, quindi sentiamo parlare di sussidi, di soldi dati nel caso di matrimoni in chiesa, piuttosto che sussidi sussidi di vario tipo che supportano e possano supportare la maternità, però ovviamente in una chiave assistenzialista e immersa all'interno di quelle retoriche lì. Siamo molto preoccupate anche perché da un punto di vista dell'autodeterminazione e dell'autonomia, ma anche proprio del contrasto alla violenza, molto spesso la lettura che viene fatta dalle destre rispetto alla violenza maschile di genere è in un'ottica securitaria, ma soprattutto razzista, quindi una lettura spesso islamofoba o comunque appunto razzista, in cui si relegano le persone senza documenti che vivono in Italia, i migranti che queste persone vorrebbero espellere dal paese, come se fossero gli agenti, gli unici agenti di violenza e stupri, femminicidi, quando sappiamo benissimo che questa cosa non è assolutamente vera, e anzi i numeri sono completamente dalla parte della violenza che ha le chiavi di casa. Se guardiamo il piano internazionale, perché non una di meno spesso insomma guarda anche il piano internazionale, succedono molte cose. Da un lato c'è la guerra in Ucraina, dall'altro abbiamo visto l'attacco all'aborto negli Stati Uniti, ma anche la rivoluzione delle donne iraniane. Ovviamente in questo momento storico specifico la rivoluzione iraniana, che vede le donne iraniane come protagoniste di questa rivolta, è una cosa che ci ha dato molta forza nel tener conto di una situazione che è drammatica, però ci ha dato molta forza e siamo in stretto contatto con la comunità iraniana, con le donne iraniane, con le compagne che saranno a Roma e con cui insomma abbiamo cercato di entrare non solo in contatto ma di costruire insieme le lotte con le compagne iraniane che sono qui in Italia, proprio perché è importante per noi avere una relazione costante con le compagne che stanno e un compagno che stanno fuori dall'Italia. Rispetto alla situazione della guerra in Ucraina, che è un altro scenario drammatico, che purtroppo sono ormai quasi 9 mesi di guerra e anche lì le implicazioni sono molteplici, e anche su quel fronte ovviamente la manifestazione del 26 che abbiamo lanciato al grido di basta guerre sui nostri corpi, rivolta transfemminista, un po' questo slogan vuole unire, no, tutte queste guerre, queste battaglie che si combattono sui corpi e sui territori delle compagne, dei compagni, e la guerra in Ucraina è sicuramente uno scenario che aggrava tutta una serie di condizioni materiali qui in Italia, quindi che ha delle ricadute economiche e sociali importantissime e che ovviamente aggrava e devasta le vite delle persone che con la guerra la stanno subendo. Anche lì ci sono delle dinamiche rispetto per esempio alla migrazione e ai flussi migratori che sono molto gravi e che rivelano anche le politiche della Fortezza Europa. La Meloni e anche tutti i governi di centrodestra conservatori sono assolutamente schierati contro l'ingresso di migranti dal Nord Africa, dalla Libia, che arrivano diciamo via mare, creando una classifica, una gerarchia, no? Quindi invece tutte le nazioni vogliono, sono in prima linea perché vogliono accogliere i profughi e le profughe ucraine, quando sappiamo benissimo che alla fine molto spesso li si vuole accogliere per poi metterli a profitto e diciamo sfruttarli in un'ottica capitalista di metterli a lavoro. Quindi insomma sono tutte delle situazioni molto complesse. Tra l'altro le frontiere in Ucraina hanno dei meccanismi molto particolari, ci sono state anche delle questioni legate all'aborto, alla pillola abortiva che non voleva essere distribuita. La situazione degli scenari di guerra è sempre ulteriormente particolare e grave, e anche abbiamo visto adesso con i bombardamenti in Rojava, a Kobane, da parte di Erdogan. Quindi insomma sappiamo che la guerra, che le guerre sono uno strumento più totalizzante della violenza patriarcale. Lo scenario invece del contrasto all'aborto, del contrattacco conservatore negli Stati Uniti, è ovviamente uno scenario diciamo un po' diverso ma non meno grave, e che guardiamo con interesse e con grande preoccupazione, perché ovviamente crea anche un precedente molto vicino a livello di lotte e di vita. La situazione in Italia è sicuramente diversa, e in questo momento noi pensiamo, ma lo hanno anche dichiarato, che probabilmente il 194 non sarà toccata, ma non sarà toccata semplicemente perché la Meloni e le destre sanno benissimo che la 194 è già una legge al ribasso che consente di ostacolare in tutti i modi possibili l'accesso agli IVG per le donne e le persone con capacità gestante, quindi faranno una valanga di finanziamenti a pro-life, associazioni contro l'aborto, e questa è una cosa che ci preoccupa molto, anche perché lo scenario è anche di averli sempre di più dentro le scuole, dentro gli ospedali, quindi è una cosa che comunque anche in Italia ci preoccupa molto.